essere una campanula trasparente, ma ricorda anche un po' una calotta di vetro. Anche questa ha le stesse venature, le stesse crepe, dipende sempre da come vogliamo interpretarle. Per cui è come se anche queste sfere o semisfere fossero o innervate, irrorate da sangue o nervature, oppure si fossero già rotte, fossero qualche cosa di morto o rovinato. Se vi ricordate, poi la settimana scorsa avevamo già detto del fatto che molti di questi personaggi siano al contrario, siano a rovescio. No, il mondo alla rovescia è tipico proprio, avevamo già parlato di questo, del carnasciale, l'idea che tutto possa andare a rovescio. Ma il fatto che molte figure ci vengano date di spalle o ci vengano date mettendo in primo piano le natiche, ci parlano di una situazione rovescia, e quindi non è improbabile che queste figure in verticale parlino proprio di un mondo che si è rovesciato, che va al contrario. Una cosa particolare però è che nello stesso periodo abbiamo da parte di chi realizza appunto grottesche una serie di elementi che inducono i decoratori ad inserire nelle grottesche gli acrobati. Sono memoria del mondo romano dei mimi. Il mimo romano spesso si esibiva in teatro nudo. Da qui poi anche la degenerazione di alcuni spettacoli all'interno del teatro romano, da qui la condanna del mondo cristiano, cristiano all'epoca, non cattolico, nei confronti degli attori, che di fatto non erano solo attori, erano mimi. E ricordatevi che nella Roma tardo imperiale erano legati a doppio filo al mondo della prostituzione. Negli arcovoli più bassi dei teatri spesso avevamo dei bordelli, e quindi si seguiva lo spettacolo teatrale talvolta accompagnati da una prostituta. E non era improbabile anche che in alcune situazioni, a seconda degli spettacoli, nel teatro romano tutto terminasse e si chiudesse con una sorta di orgia. Ecco che quindi la presenza nel mondo romano della grottesca, della decorazione a piccoli grilli, a mostri, ha un suo motivo d'essere. Qui ci ritroviamo invece ad averli come copia del mondo romano, come copia degli affreschi delle case domus rimaste a Roma, ma anche in altri luoghi d'Europa dove i romani erano giunti e avevano conquistato. Certo è interessante vedere come contemporaneamente Bosch utilizzi questi, che sono puri elementi di decorazione, invece dandoceli come elementi di presenza, di figura reale, tridimensionale, all'interno di questo mondo assolutamente rovesciato, che va in molte situazioni contro la normalità delle cose, contro natura. Guardate che cosa accade su questa foglia barca. Noi abbiamo una figura nera che bacia una figura bianca, un uomo nero che bacia una donna fiamminga, bionda dalla bianchissima carnagione. Guardate che questo tipo di unione all'epoca era considerata contro natura. Bianchi e neri non dovevano mescolarsi per nessuna ragione, era peccato mortale. Per cui i matrimoni misti non erano assolutamente contemplati, nemmeno nelle libere Fiandre, diciamo così. E qui sicuramente l'alchimia ha un ruolo fondamentale. Molto probabilmente anche queste fontane, che sono tutte rosse e blu, i due colori, questo l'abbiamo già detto la settimana scorsa, no? Legati appunto alla sacralità, ma legati anche agli opposti. Il rosso è un colore caldo, il blu è un colore freddo, il rosso è il colore del giorno, si può sostituire serenamente al giallo del sole, no? Il blu è il colore della notte, delle tenebre. Nel mondo alchemico questi due colori sono uno opposto all'altro e quindi nel cosiddetto matrimonio alchemico si incontrano, non mescolandosi mai. Perché ricordatevi che nell'alchimia, che è un po' l'anticamera della magia o che è una branca della magia, l'unione, il matrimonio alchemico prevede l'incontro di due opposti, fuoco e ghiaccio, giorno e notte, femminile e maschile, ma intesi appunto non come complementari, ma come opposti. E abbiamo anche, a proposito di questo andare a rovescio, una serie di xilografie sempre olandesi, dello stesso periodo contemporanee a Bosch, che ci rappresentano proprio delle figure alla rovescia, al contrario, che diciamo si piantano dentro l'acqua, stanno dentro l'acqua. Per cui non è improbabile che quello che vediamo in Bosch fosse qualcosa di meno strano, di meno bizzarro per i suoi contemporanei rispetto a quanto non lo sia invece per noi. E vedendo i dettagli, noi abbiamo veramente una miriade, vi ripeto, di coppie incastrate dentro a queste bacche con l'uva. Abbiamo dentro a questi strani frutti degli alberi che nascono, ma sono alberi di frutti differenti. Per cui da questa bacca non fuoriesce l'albero di questa bacca, ma fuoriesce l'uva, fuoriescono foglie di quercia, fuoriescono anche delle piante che sono quasi a metà strada tra la decorazione, no? Il racema, il girame rinascimentale e il vegetale vero. Tra l'altro, se notate, questa pianta che parte, che sembra quasi avere delle foglie legate al nocciolo, poi dà dei fiori che nulla hanno a che vedere con il bocciolo, ha delle grosse bacche scure e termina da qui in poi con una serie di spine, ma molto grosse. Calcolate la proporzione con quello che è il volto di uno di questi uomini e vi rendete conto che la spina è gigantesca. Tra l'altro, dalla stessa bacca noi vediamo uscire un ibis, una cicogna, un uccello e tutta la tavola centrale è ricchissima di uccelli. E il signore dell'inferno a sua volta è un uccello, per cui c'è questa importanza, no? Così profonda, così legata al mondo dei volatili. E non è improbabile anche che sia legata ad un testo che girava con grande passione da parte proprio anche della lettura popolare, che è quello legato al supplizio di Tantalo, che vi consiglio anche di andarvi a leggere, così avete un testo che vi può aiutare nella lettura. Questo supplizio o visione di Tondalo, Tandalo, dipende sempre da come lo andiamo a leggere, vede protagonista in una sorta di inferno, che ricorda un po' il nostro inferno dantesco, signore dell'inferno vede proprio un uccello ed è un divoratore di anime. E capite che il rimando, più che a questo cardellino di cui vi parlo dopo, il rimando diretto è proprio al signore dell'inferno. Eccolo qui. E tra l'altro pensate che nella visione di Tandalo, o supplizio di Tondalo, vedete un po' voi, ci ritroviamo, guardate, Non confondetelo con il tandalo della mitologia classica, che appunto è trasformato in fontana e muore praticamente di sete. Non ha nulla a che vedere. È proprio un altro tipo di testo che gira nell'ambito fiammingo nel 400, di cui probabilmente anche l'Italia ha conosciuto una buona divulgazione, però in un periodo precedente. Parla appunto di questo uccello al centro di una sorta di mondo infernale che divora le anime, mangia le anime e poi le va a defecare. Se vi ricordate, è esattamente la situazione di questo uccello nell'inferno del trittico delle meraviglie o delle delizie. Oh, il cardellino, altro uccello che compare nella tavola centrale, è un uccello su cui hanno scritto molto, soprattutto dandone una lettura infernale, diabolica. In realtà questo povero cardellino subiva, la limatura del becco, in modo da renderlo ancora più acuminato, e parlo ovviamente dei cardellini tenuti in gabbia nelle voliere, fu una moda, vero? Probabilmente di derivazione araba, l'idea appunto di avere nel giardino la grande voliera, per cui la grande gabbia piena di uccelli esotici o particolarissimi, per diciamo vederlo cacciare con maggiore crudeltà, rendendogli proprio questo becco come se fosse una sorta di punta di spada, punta di lancia. Il becco del cardellino, esattamente quanto il becco dei corvi, veniva anche utilizzato per l'impennatura degli strumenti musicali. Non a caso si chiamava impennatura, ancora oggi si chiama impennatura. Non so se abbiate mai visto un clavicembalo, il nonno del pianoforte, per capirci, no? Mentre il pianoforte permette di farci sentire il suono perché c'è il tasto praticamente funge da leva, alza un martello, un martelletto, e il martelletto percuote, martella la corda. Il clavicembalo, che è un meccanismo ben più arcaico rispetto a quello del pianoforte, prevede appunto una barra, il tasto, che aziona un saltarello, cioè una specie di pezzo di legno che sale e scende. Io pigio il tasto e questa leva, diciamo, sale. In questa barra di legno veniva inserita una penna, oggi sono in plexiglass, vero? Un materiale proprio rigido sintetico, a forma di lungo triangolo che pizzica la corda. All'epoca, e i clavicembali nascono più o meno in questo periodo, un po' prima, metà 400, questi becchi venivano proprio utilizzati al posto del plexiglass che usiamo oggi, per cui venivano utilizzati per pizzicare le corde del clavicembalo. Per cui gli uccelli avevano anche questa mansione. In più metteteci anche tutto il culto, il rito, l'amore della caccia attraverso i falconi, la falconeria. Era una sorta di codice d'onore andare a caccia con il falcone, veniva proprio addestrato alla caccia attraverso le lepri e a volte anche i topi, proprio per abituarlo a volare sulla preda, afferrarla, portarla in alto, farla precipitare, quindi ucciderla, poi scendere, recuperarla e portarla al suo padrone. Federico II di Svevia era un grande appassionato di falconeria, tanto da scriverne un trattato intorno al 1238, mi pare, 38-40. Per cui potremmo dare anche quest'altra lettura a tutta la presenza di questi uccelli, oppure chissà, altre possibili letture sicuramente erano e sono ancora da comprendere. Alcuni critici hanno riconosciuto in varie scene una serie di peccati, già nella tavola centrale. L'ignavia, per esempio. Quest'uomo un po' come quello che abbiamo lasciato quasi addormentato sulla bacca, rappresenterebbe l'ignavia. Guardate che l'ignavia è un peccato ed è, diciamo, una sorta di depressione, no? Più o meno. Una depressione, ma è anche un'indolenza, il fatto di non aver voglia di fare le cose. Un po' come l'acidia. L'acidia è già un'altra cosa, però si assomigliano. Tipo l'inettitudine? Un po', sì. Però fatto, vissuto con consapevolezza, non è una cosa involontaria, è voluta. Cioè quando voi siete giù in giardino, c'è un bel sole, state bene, avete vicino chi volevate avere vicino e avete lezione e scegliete di restare giù e di non salire a lezione, avete tutta la mia comprensione, ma state peccando di ignavia perché siete consapevoli di quello che state facendo. Ecco, in alcune scene nella tavola noi ci ritroviamo ad avere situazioni di ignavia, di indolenza, come in questo caso. Questo, secondo alcuni critici, può essere letto quasi come un tentativo di stupro, e ne abbiamo vari all'interno della tavola. Lei che viene bloccata da lui che la sta abbracciando. Non è un passo di valzer, vero? Il valzer non esisteva ancora. E in ogni caso, anche il valzer, sappiate che per molto tempo è stato considerato un tipo di ballo assolutamente peccaminoso. Il fatto di molte coppie a tergo, l'idea appunto di darci tutte queste natiche, l'idea di entrare dentro anziché uscire, ci viene, vi ripeto, costantemente presentato ed evidenziato. Questo l'avevamo visto anche la settimana scorsa, se vi ricordate. Anche qui non si entra dentro un gamberetto, si cerca di uscirne. E in ogni caso, se notate, sempre che sia un gamberetto o la coda di un gambero, è pur sempre la parte terminale dell'animale, non è la testa, non è la parte centrale del corpo, è la parte posteriore. E la maggior parte, almeno i due terzi di tutti i personaggi che noi troviamo nella parte centrale dell'opera, ci vengono presentati di spalle. Ecco l'interno della cozza di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, ma che si vedeva malissimo nell'immagine che vi avevo portato. Anche qui siamo in presenza di un atto sessuale, vero? Perché se notate abbiamo sicuramente due persone una sopra l'altra, o perlomeno di una posizione che potrebbe rimandare ad un atto sessuale. La cosa particolare però è che da questa cozza fuoriescono delle microperle, guardate, che sembrano proprio delle sferette di vetro, una delle quali sta uscendo proprio dalle natiche di uno dei due personaggi, un po' come l'uccello che vediamo poi nella tavola dell'inferno, che ha questa sfera, se vi ricordate, questa sorta di bolla di vetro attraverso la quale sta defecando appunto le anime che si è mangiato e digerito. E questa è una delle tante coppie che ci vengono presentate supine, per cui, no, prone, scusate, a pancia in giù, così non sbagliamo. Sempre con, diciamo, le natiche in bella vista, oltre che ad avere appunto testa di bacca o di oliva o di ibridazioni. Per cui è sempre una posizione che presenta il dietro dei personaggi. E questo forse dovrebbe essere uno degli elementi che dovrebbero farci riflettere per riuscire a leggere questi elementi che, vi ripeto, ancora nessuno è riuscito a decifrare con assoluta certezza. Il civettone, che abbiamo visto anche la settimana scorsa. Oh, una cosa particolare, questo civettone che sta sopra ad una possibile bacca con altre bacche che potrebbero essere ciliegie, ma potrebbero essere anche qualsiasi altra cosa, non pomodorini, vero? Non ciliegina, perché non erano ancora arrivati in Europa, primo. Secondo, quando arrivarono in Europa, ricordatevi che arrivarono come piante ornamentali. Nessuno si sognò per tutto il 1500 di mangiare un pomodoro. Era un po' come andare a mangiarsi una rosa, per capirci. Proprio arrivarono e per almeno 100 anni vennero utilizzati come piante ornamentali, non come verdura. Per cui è improbabile che siano pomodori. Se fossero pomodori, se, noi dovremmo considerare quindi l'ultima datazione, la datazione più tarda di questa tavola, sulla quale, vi ripeto, non abbiamo una datazione certa, e dovremmo quindi considerarli una sorta di elemento esotico, vero? Qualche cosa che arriva da un mondo che potrebbe essere considerato quasi il Katai, il mondo che non c'è. Inoltre abbiamo delle viole, chiamiamole viole, a tre petali blu, che ritornano molte volte nella tavola in testa a vari personaggi, come se fossero dei copricapi. La viola, per assurdo, diciamo a rovescio rispetto a Bosch, ha sempre avuto nella lettura, diciamo, rinascimentale o tardo gotica, una lettura positiva, non negativa, tanto che la viola sarà uno dei fiori mariani, quanto i fiorellini azzurri piccoli, i cosiddetti occhietti della Madonna, no? Sono fiori di maggio e quindi sono fiori ancora oggi che si portano all'altare della Madonna, per cui sono fiori che ricordano la purezza e la castità, nulla hanno a che vedere con il contesto in cui ci troviamo. Non è improbabile che vengano inseriti proprio da Bosch come contrario del loro significato, come idea di questi personaggi, ma non, diciamo, come purezza insita all'interno di questi personaggi. Guardate, eccola qui, identica, vero? Due petali blu e un petalo azzurro, identico proprio al tralcio che noi troviamo qui, in questa civetta che sta su una bacca, dentro la quale stanno due personaggi che vanno uno al contrario dell'altro perché hanno le schiene affiancate, appoggiate. E quindi la viola in testa la troviamo qui, ma la troviamo anche in molti altri punti. Molti fiori azzurri, molti, di vari tipi e di varie dimensioni, più o meno grandi. Così come blu sono le more, che troviamo, vero, in gran quantità e anche qui di dimensioni assolutamente diverse in tutta la tavola. Ma torniamo allo sguardo generale, perché se notate qui al centro abbiamo questo gran girotondo, no, di cui già abbiamo parlato, e per quanto riguarda questo andare in tondo io volevo leggervi una citazione antica sempre della glossa tratta da Jacopo da Varagine, che parla proprio dell'andare in tondo. Se la trovo, l'avevo qui, ecco qui, dice: le persone mondane seguono un cammino circolare. E pensate, l'abbiamo già accennato la settimana scorsa, quanta ostinazione Dante abbia nella Divina Commedia nell'idea dell'andare in tondo. In tutto l'inferno noi abbiamo i gironi, e non a caso, vero? Sono i gironi dell'inferno dantesco. Ma i dannati, là dove non siano piantati dentro a qualche cosa, corrono costantemente in tondo, soprattutto i lussuriosi. Paolo e Francesca, se vi ricordate, sono dentro a un girone che corre continuamente, dentro ad un vento. Dante ci parla del vento che e del suono cacofonico, per cui negativo, fastidioso, del rumore, che fanno proprio correndo intorno, e sono tutti a coppie, perché siamo nel girone dei lussuriosi e Paolo e Francesca si staccano per un istante da questo correre intorno e gli raccontano la loro storia. Ve lo ricordate questo passo della Divina Commedia? No, è uno dei più famosi, è uno di quelli più letti a livello sentimentale. Amor ca nulla amato, amar perdona. Quello è Paolo e Francesca. Ecco, serviva la citazione. Tornate a leggerlo, perché poi vi aiuta a capire Bosch, vi prego, oltre che a ricordare un po' di letteratura italiana che non guasta. Ritorniamo a Jacopo da Varagine. Le persone mondane, per cui le persone comuni che non sono legate al clero, il popolo, seguono un cammino circolare, perché Davide diceva che le persone avanzano in una processione di cerchi. Così diceva la glossa, per cui così diceva il commento fatto a Davide. Le persone malvagie procedono in tondo a causa del desiderio che hanno delle cose terrene, le quali compiono il loro giro in 7 giorni. Questa è una mentalità quattrocentesca, vero? Cioè l'idea che si corra in tondo per riuscire ad ottenere qualche cosa che non si riesce ad avere. Perché? Perché le cose malvagie ruotano e impiegano 7 giorni per ritornare da capo. È un po' l'idea della rotazione del tempo, le lancette dell'orologio per noi, per loro gli orologi non sono ancora così diffusi e non sono ancora a lancette come i nostri, ma è il ritornare perpetuo in circolo dei giorni della settimana. E quindi se io voglio una cosa che accade il lunedì, devo aspettare che scorra tutta la settimana in tondo per ritornare a lunedì. Nel loro modo di pensare, la settimana è circolare, perché ciò che inizia là dove finisce è un cerchio. Da qui per esempio anche, non so, la presenza dei mestieri o dei mesi all'interno di strutture circolari o a immagini circolari, le ruote. Con i 12 mesi, la ruota legata all'oroscopo. Perché l'oroscopo è sempre un anello? Perché c'è l'idea appunto della circolarità. Chi è nato a maggio, per riveder comparire il proprio segno zodiacale, deve attendere che ritorni maggio, la seconda metà di aprile, d'accordo? E quindi è considerato un cerchio. Ecco che le cose terrene, mondane, lette dagli uomini, che gli uomini possono leggere, girano in tondo, ruotano su se stesse. Ecco che l'idea della circolarità, del correre vertiginosamente, vorticosamente in tondo, potrebbe rifarsi a questo modo di pensare. Guardate che non sarà solo di Bosch l'idea di darci queste corse in tondo. Se ce la facciamo oggi vedremo anche un'opera di Bruegel dove c'è questa idea di procedere per cerchi concentrici. E vediamo di nuovo l'inferno, perché qui abbiamo una serie di situazioni. Rivediamo gli strumenti musicali, rivediamo anche l'inferno che così non guasta. Portate pazienza, oggi funziona così. L'inferno. No. Vediamolo qui. L'inferno musicale, dicevamo, no? Gli strumenti musicali. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa e abbiamo detto appunto che qui vengono tutti utilizzati come strumento di tortura. Abbiamo persone appese, crocifisse, inchiodate, sodomizzate. Abbiamo, e guardate che questo era proprio un oggetto di tortura, come abbiamo la campana, e dicevamo, no, che si potevano utilizzare delle persone legate al battente interno, al battocchio di una campana per ucciderle proprio dal suono, qui abbiamo un personaggio che è chiuso dentro alla gran cassa, a questo grande tamburo. Guardate che anche questo era un modo per far soffrire le persone. E esplode lo stomaco stando dentro ad una gran cassa, perché il rumore riverbera nello stomaco. Non so se vi è mai capitato di essere in un teatro e di sentire una grande orchestra suonare. Il suono sostanzialmente voi non l'avete nelle orecchie, l'avete nello stomaco, soprattutto se ci sono strumenti a percussione e ci sono i tromboni e i bassi tuba, cioè gli strumenti a fiato con suoni molto gravi. Voi l'avete nello stomaco, perché lo stomaco è la nostra cassa di risonanza, è la nostra parte vuota, diciamo così, che ha più spazio. Il diavolo, che se notate è a metà strada tra un rospo, un pesce gatto e un green man, cioè quelle maschere fatte di foglie, questi volti d'uomo fatti sempre con foglie, sta percuotendo una gran cassa con dentro un poveretto che lo sta guardando terrorizzato. Anche questo è uno strumento di tortura. La cosa che mi premeva farvi notare è che il gruppo di dannati che è intorno a questi strumenti musicali tende a tenere la bocca aperta e a tapparsi le orecchie. È una reazione per salvare i timpani. Se voi sentite un forte rumore e tenete la bocca chiusa, i vostri timpani soffrono il doppio. Aprendo la bocca è come se permettessimo al suono di uscire attraverso la bocca e quindi di liberarci la testa di questo enorme rumore. Questo ci fa capire che in questa situazione c'è un rumore pazzesco, perché loro hanno la necessità di tapparsi le orecchie e di aprire la bocca. Forse stanno urlando, la memoria dovrebbe andarvi al Novecento, pensate all'urlo di Munch, anche lì si sta tappando le orecchie il personaggio, no? E sta urlando. Ma potrebbero anche avere la necessità di aprire la bocca per far uscire questo rumore. Si parla infatti di inferno cacofonico. Cacofonia significa suono brutto, suono assordante, suono che non ha armonia. Ecco, la cacofonia è l'esatto opposto dell'armonia. Ed è qualche cosa che fisicamente non riusciamo a reggere, non riusciamo a tollerare. Perché? Perché va contro natura. L'armonia musicale è qualche cosa che esiste in natura. La musica è fatta da proporzioni numeriche rigorosissime che si ricavano proprio dalla natura, dal pizzicare una corda, andando a dividerla, pizzicandola, si ottiene un altro suono, la divido ancora, pizzico, tengo un altro suono, costruisco così una sequenza di suoni che, se messi in fila, danno vita ad una scala musicale. Sulla scala musicale, che è composta da proporzioni numeriche esistenti tra un suono e l'altro, io costruisco più suoni sovrapposti, creando armonie. I suoni sovrapposti, musicalmente parlando, vi ripeto, hanno proporzioni numeriche, hanno un ordine, non nascono a caso. Ecco che lì dove manchi l'ordine, dove manchi il numero, la proporzione naturale, io ho una cacofonia, un qualche cosa che fisicamente non riesco a reggere. Ecco probabilmente il perché dell'idea di mettere strumenti musicali dentro all'inferno. Anche perché, ripeto, non sono gli strumenti pertinenti, se non gli strumenti a fiato. E eccoli qui, vedete, anche questi, le bombarde, i cromorni, i tromboni, tutti strumenti dell'epoca suonati. Bombarde, mi scusi? Bombarde, questa è una bombarda che è la nonna dell'oboe. Questo è un cromorno. Cromorno. È un flauto di legno che ha una forma a manico d'ombrello nella parte che sta sotto, per cui è ricurvo. Estintosi, vero, intorno al 1600, non più utilizzato. Farebbe parte proprio della famiglia dei flauti dolci, per riuscire a capirci. E questo è un trombone, ovviamente quattrocentesco, per cui non ha tasti, non ha pistoni. Probabilmente ognuno suona quello che gli pare, dando vita a questo caos terribile. Guardate che l'idea che all'inferno ci fosse una gran confusione ci viene costantemente ripetuta da tutta una letteratura precedente anche al 1400. Dante, ma anche il Libro della Scala, che è un testo musulmano, ci dice che in assenza di grazia di Dio c'è una gran confusione, c'è molto rumore. Anche il mondo indiano dice che in assenza di divinità abbiamo una cacofonia. Se ci pensate, la cosmogonia, cioè la creazione del mondo secondo la filosofia indiana, ci parla dell'om. L'om è il suono creatore, è il suono che mette ordine nel caos, e il caos è musicale. È il suono primigenio, l'om, ed è una sorta di Dio creatore. L'om crea armonicamente, mette ordine nel disordine sonoro. Ecco che ovviamente l'inferno, l'assenza di ordine, deve avere questo grande caos, questo grande frastuono. E riguardo alle grandi scoperte di cui YouTube ci così tiene costantemente informati, di recente una studentessa di una università americana, studentessa di una scuola di musica di un'università americana, ha fatto la scoperta del secolo. Si è trascritta le note che questo diavolo sta vomitando sulle natiche, non a caso, di un dannato che viene stritolato, schiacciato da questo liuto, sepolto da questo liuto. Andiamo a vederle. Qualcuno di voi, tra l'altro, me ne aveva anche accennato all'inizio del corso di questa scoperta, e quindi volutamente sono andata a vedermela. Ecco qui, ancora una volta le natiche, dicevamo, no? È proprio questo diavolo che sembra, attraverso questo filo, vomitare note sul sedere di questo poveretto. Questo è quello che trovate su YouTube. La trascrizione musicale che ha fatto questa studentessa. E avete anche il suono, naturalmente, YouTube. Dimenticatevelo. Perché? Qui faccio un po' la saccente. Perché quello che è scritto qui è tutt'altro rispetto a quello che ha scritto lei. E posso dirlo proprio con certezza. Allora, qui siamo su quattro righi musicali, tipico proprio del 1400. Il quinto rigo si aggiunge, a seconda di dove siamo geograficamente, più o meno a metà 1400. La musica si legge su quattro righi. Ora, la musica che è scritta qui è quasi senza misura, non c'è il tempo scritto. Questa ragazza si inventa un quattro quarti, cioè proprio non esiste. Questa musica non ha misura. Ma non ha neanche la chiave, soprattutto. Io la chiave la vedrei, ed è questa. Questa è una chiave di Do, e siamo proprio nella scrittura dell'epoca. E quindi saremo in una chiave di tenore, considerata l'altezza. E abbiamo anche la tonalità, se volete. Siamo in Si bemolle. No, scusate, cosa dico? È un bemolle quello? Sì, sono due bemolli. Le note scritte possiamo trascriverle? Le possiamo scrivere, non è che non si possano scrivere. Ma la melodia sembrerebbe non aver senso. E poi, dove va a finire? Cioè, il da capo è subito qui? Ed è un da capo? Perché se devo dire la verità, a me sembrano scritte come se fosse una partitura, ma è un controsenso, perché non si scrive a righi sovrapposti con il tetralineo ancora. Dobbiamo aspettare i 5 righi. Con i 4 è complicato. Su 4 righi si scrive il gregoriano ancora in quest'epoca. Il gregoriano non ha misura di tempo. Se siamo all'inferno, nella loro mentalità è gregoriano ancora. È la musica che viene eseguita in chiesa, è solo musica sacra il gregoriano. Noi non abbiamo musica profana composta secondo i criteri gregoriani. La cosa graziosa è che la sta proprio vomitando, la sta proprio scrivendo, perché 4 righi completi, chiavi, 2 alterazioni, note, vado a capo. Ipotetica ripresa della chiave, anche se io qui non la vedo. Scrittura musicale, 4 righi. Qui sotto, se notate, di righi, riuscite a vederlo? Sì. Ne abbiamo solo 2. Per cui lo sta ancora tracciando. Di solito, pensate, si usavano dei pennini, ci sono ancora oggi in commercio, con 4 punte, come se fossero dei rastrelli, dei micro rastrelli, che venivano intinti nell'inchiostro. Si tirava il tetragramma e dopo si scrivevano le note. Non esiste che mentre io traccio le righe, i righi, vado a scrivere le note. Prima traccio tutti e 4 i righi e poi scrivo le note. Ma in una situazione di caos totale si scrivono le note man mano che si stendono i righi. Per cui è un modo di procedere che in musica non esiste, non si può proprio fare. Possiamo vedere tutta la figura? La figura intera? Sì, vediamo. Sì. Lo faccio vedere, vediamo proprio il dettaglio, perché fate fatica. Altrimenti, eccolo qua. Lo ingrandiamo un po'. È come se le note ce le avesse appiccicate in questa lingua. Esatto. Pronto per essere. E gli stessero scendendo via via vero su queste poche natiche, anche se a veder bene la lingua termina qui, vedete? Le natiche sono qui, è come se le stesse gocciolando sopra, cioè qualche cosa proprio di vomitevole. Per cui, se volessimo andare a trascrivere questa musica, non sarebbe certo quella che potete ascoltare su YouTube, è un'altra cosa. Potrei però provare a capire che melodia è nel mondo gregoriano. Se capisco qual è, poi ve lo racconto. Perché proprio andando ad ascoltare la melodia ho detto, beh, andiamo bene a vedere che cos'è, e mi sono accorta che è proprio un'altra cosa. Non può certo essere il 4/4 che vedete qui, anzi, tra l'altro è carino perché viene suonato da un pianoforte elettronico, e insomma in un mondo così ci vuole almeno uno strumento originale dell'epoca, no? O perlomeno l'effetto sintetico c'è dentro alle varie tastiere per poterlo fare. Volevo farvi notare che dietro a queste persone che stanno, una di queste vedete indica come se stesse tenendo il segno di queste note, il che significa anche che alcuni di questi magari stanno cantando questa musica. Abbiamo dei diavoli, dei mostri proprio neri con zampe di rospo che tengono sulla testa un libro. Se vi ricordate, noi l'abbiamo già vista la scena del libro sulla testa, no? Sì, e quindi la saggezza probabilmente, il sapere. E questo è un sapere demoniaco che canta però con come se si fosse nel coro di una chiesa. Perché a ben vedere noi abbiamo un codex musicale, eccolo qui, il libro noi l'abbiamo, e ci ricorda proprio questo tipo di scrittura in verticale. La cosa che a me balza agli occhi, considerato anche il periodo storico, è che queste note scendono, salgono, scendono, salgono, scendono, salgono, scendono, salgono. Si chiama madrigalismo. Era un modo di scrivere molto colto che dava a livello grafico l'immagine della parola che veniva cantata. Esempio, si musicava un madrigale amatissimo nel testo scritto, che era "Vestiva i colli". Lo farà Palestrina, lo musicheranno molti musicisti dell'epoca. Allora, il testo inizia con "Vestiva i colli e le colline intorno". Il testo viene cantato, d'accordo, su una melodia musicale. La melodia, graficamente, mi dà delle note che riproducono le colline. Questa è una cosa che io vedo se leggo la musica, se l'ascolto devo avere una buona preparazione per capirlo. Le note che vengono cantate sulla parola colli sono note che salgono e scendono, cioè visivamente scritte sulla partitura mi danno l'immagine della collina. E quando dice collina, vestiva i colli e le colline intorno, mi dà la stessa figura però un po' più bassa, perché i colli sono più alti e le colline sono un po' più basse. È tipico di quest'epoca musicale scrivere in questo modo, è un autocompiacimento dei musicisti dell'epoca, il fatto di vedere visivamente quello che la parola sta pronunciando, sta permettendo alla mente di immaginare. Questa è la cosa che a me balza agli occhi, nient'altro, però bisognerebbe, vi ripeto, provare effettivamente a trascriverlo, e non dovrebbe essere una cosa così complicata, anzi, sarà un compito per casa mio. Altra cosa che volevo rivedere insieme a voi su quest'inferno era... l'idea del rame lucido, di cui abbiamo tanto parlato nella prima parte del corso, no? L'idea della luce riflessa. In tutto l'inferno l'elemento che luccica è soltanto questo enorme pentolone che il signore di quest'inferno tiene in testa. Fa parte della pittura fiamminga, è un classico della pittura fiamminga, quella di rappresentare oggetti in rame estremamente lucidi o in ottone molto lucidi, un po' come il discorso dei vetri, no? E se vi ricordate, aveva un suo significato specifico, era esaltare la gloria di Dio in tutti gli oggetti del creato. L'unico oggetto scintillante lo porta in testa il diavolo. E qui potrebbe anche essere un modo per fare il verso a questo diavolo, no? Signore dell'inferno è Lucifero, Lucifer, colui che porta la luce. È l'unico elemento brillante, luccicante di tutto l'inferno. Potrebbe. Ma vi ripeto, noi non abbiamo proprio la spiegazione diretta da parte di Bosch. Una cosa interessante è che Bruegel, che è un pittore fiammingo famosissimo, di pochissimo posteriore a Bosch, e che spesso venne confuso con Bosch, realizza, e siamo a metà 1500, una acquaforte dedicata proprio alla bottega dell'alchimista. E qui Abbiamo tutta una serie di piante, di alberi, di pezzi da albero appoggiati sul camino che devono andare ad essere cotti dentro a questa caldara, questo grande calderone, fratello di quello che tiene in testa il diavolo dell'inferno. Ovviamente qui abbiamo l'alchimista, che è uno speziale, per cui, vero, bottega nella quale Bosch aveva grande esperienza, avendone uno per suocero, uno speziale per suocero, si segue il ricettario, il libro, che vagamente ci ricorda questo codice musicale piazzato sotto il liuto, come se fosse una sorta di promemoria, di linea guida. E se notate, i bimbi che giocano all'interno di questa bottega dell'alchimista, che ovviamente è un po' anche stregone, un po' mago, e ci viene proprio ritratto, vedete, con i capelli spettinati, magrissimo, con le mani quasi aguzze, in ciabatte. I bimbi che giocano all'interno di questa bottega tengono in testa un caldare, per cui la stessa pentola infilata in testa, esattamente come ha il diavolo, questo Lucifero di Bosch. Potrebbe essere solo una fatalità, ma diciamo che c'è questa lieve corrispondenza. Gli storici sono concordi nel dire che queste tavole sono ricche di significati alchemici che a noi ancora probabilmente sfuggono. Dello stesso periodo è anche questa stampa popolare che ci dà praticamente una copia di giullari, di folli. Il full è anche il folle, vero? Il full è il oculares, il giullare, il giocoliere. La cosa particolare è che tengono sia il signore e la signora giullari, tengono in mano dei contenitori per alcolici, e lei tiene l'anfora, la stessa anfora dentro cui, se vi ricordate, il diavolo tiene infilati i piedi. È come se questo Lucifero tenesse le zampe in ammollo dentro a dei contenitori di vino. Sono verdi qui, li vedete? Adesso vi faccio vedere. Eccoli qui. E questa stessa anfora noi poi la ritroviamo anche gettata a terra e in mano a questa strana persona, legata appunto ai debiti per gioco. Per cui, diciamo, un altro possibile potenziale rimando, oltre naturalmente, vero, a questi cappucci con orecchie d'asino o di maiale o di gatto. Che cos'è che ha in mano? Questo? Sì. Questo è una sorta di bastone a forma di fallo. Richiama la sessualità legata a questa maschera di cui già abbiamo parlato, che è questa sorta appunto di buffone che è arrivato nel mondo italico ancora. E questo tipo di attore che non si esibisce in teatro, ma che fa teatro di strada, che ha sempre una pancia molto grande, un sedere gigantesco, il fluaches, ne abbiamo già parlato se non sbaglio. Ecco, il fluaches, questo che poi sarà proprio l'origine del giullare, del buffone di corte, poteva portare nel mondo romano antico anche un enorme fallo posticcio legato sotto ad una tunica corta, sotto a questo pancione, che è legato proprio all'idea di eccesso. Fluax significa che non affondo, che è traboccante, no? Parla in continuazione. La sessualità smaccata fa parte dell'ironia da strada, no? Del teatro popolare. Pensate a Arlecchino, no? È la maschera che arriva a noi più vicina al Fluax, cioè è un personaggio che ha sempre fame, che è innamorato sempre, che prende un sacco di legnate. Questo oggetto potrebbe ricordare il fallo posticcio che, anziché essere portato addosso, viene tenuto in mano ed esibito. Nel tempo diventerà un bastone, il bastone con il quale si picchiano i burattini, nel teatro proprio dei burattini. Diventerà, in modo colto e alto, la spada dei pupi siciliani negli scontri legati all'Orlando e alla saga di Roncisvalle. E se noi andassimo a controllare, troveremo tutta una serie di persone che si ritrovano ad avere lunghe orecchie. La lepre, che è simbolo di lussuria, la monaca, che ha orecchie proprio di maiale, che sta importunando, sta baciando questo scrittore, no? L'abbiamo visto la settimana scorsa. Proprio orecchie legate a quest'idea. Guardate che, lo diciamo ogni tanto nel corso del medievale, quel copricapo con le orecchie sarà l'origine anche del cappello aristocratico a due punte, che di bello non aveva proprio niente, perché veniva imposto agli ebrei per nascondere le ipotetiche corna che avevano in testa, in quanto figli del diavolo. Per cui, soprattutto se il cappello a due punte è giallo o verde, sappiate che è indossato da una persona di credo ebraico, in epoca rinascimentale. Proprio è una peculiarità. E vediamo per un istante un altro elemento che ci viene raccontato dalla visione, appunto, di Tondalo. L'idea che questo personaggio si muovesse, si spostasse su un lago ghiacciato. Questo elemento noi l'abbiamo visto anche la settimana scorsa, ma l'abbiamo visto male. Vi parlavo degli zoccoli usati per il ghiaccio, no? Ecco, questo personaggio, visto bene in primo piano, è questo. Questo è proprio uno zoccolo, con una lama sotto, per cui è un pattino, tipico proprio, vero, nel mondo olandese rinascimentale, per potersi muovere sui canali ghiacciati. Trasformato in una sorta di slitta da ghiaccio, se volete, pilotata da un uomo ancora una volta piegato, mettendo appunto in allo scoperto il sedere. E ho cercato volutamente, in modo che lo poteste vedere, uno schema dei calzari, delle calzature dell'epoca. Eccole qui. Ecco, in pratica si mettevano le scarpe, che erano delle babbucce, e si infilavano dentro a questi zoccoli. Per cui la parte esterna si tendeva a farla stare in alto, legandola addirittura, da qui poi anche i campanellini delle scarpe dei giullari, per evitare che si bagnassero, che si sporcassero. Voi immaginate sotto questo tipo di zoccolo anche la lama, e da qui appunto ci viene questo zoccolo. Immaginate che appunto la babbuccia, la parte ultimale della scarpa, venisse infilata qui. La lama è chiarissima qui e serve proprio per muoversi sul ghiaccio. L'idea appunto del ghiaccio ne abbiamo parlato già la settimana scorsa, ma vi ripeto, è menzionata anche all'interno di questo testo. E sempre a riguardo di questo ghiaccio, all'epoca vi era una leggenda, un modo di dire, che era legata a un personaggio che veniva chiamato Nemo Non. Pensate poi Verne che chiamerà proprio Nemo il proprio capitano, no? Non pensate ai cartoni animati di Nemo, è un'altra cosa. Oh, di che cosa parla questa leggenda popolare del Nemonon? Nemonon significa ognuno, perché in latino la doppia negazione è un'affermazione. Nemo è nessuno, non è una negazione, per cui nessuno, non diventa ognuno o ciascuno. Parla di questo personaggio che vaga per il mondo e si imbatte anche in una zona completamente ghiacciata, che ricorda molto, molto il nono girone dantesco, l'ultimo, il peggiore, dove i dannati sono piantati dentro il ghiaccio, che appunto vede questo lago ghiacciato nero e capisce di essere arrivato all'inferno. Ne è del tutto indifferente. Perché? Perché Nemonon si preoccupa soltanto dei propri interessi. E parla appunto di una sorta di, così, rappresenta più che parla, rappresenta una sorta di accusa nei Paesi Bassi dell'epoca, nelle Fiandre, di un egoismo molto profondo radicatosi a causa proprio dell'avvento protestante. Il protestantesimo, soprattutto il calvinismo, esalta la ricchezza. Un uomo ricco gode dell'amore di Dio. La ricchezza corrisponde alla grazia di Dio. Da qui la grande quantità di banche in Svizzera. Non è peccato, è rendere lode a Dio. Ma questo porta anche ad un grande egoismo, ad un concentrarsi solo su se stessi. Ecco che i cattolici accusavano i protestanti nelle Fiandre di essere come Nemonon, cioè di incontrare qualsiasi situazione e di restarne indifferenti, perché in ogni caso dovevano tutelare i propri interessi personali. E questo Nemonon racconta di vedere personaggi pattinare su questa sorta di palude, stigia ghiacciata. Potrebbe essere anche quello. E un elemento che la settimana scorsa abbiamo trascurato proprio per motivi di tempo è la presenza di questa lanterna. Nemonon vaga un po' come Diogene con una lanterna in mano e cerca se stesso, esattamente quanto Diogene. Ma questa lanterna, se notate, è abitata, è piena di gente, non serve più, non può essere guida. Nella tavola precedente i personaggi sono guidati dalle ciliegie più che dalle lanterne di questo personaggio così popolare. La lanterna ricorda un po', se ci pensate, anche alla parabola delle spose stolte, delle ragazze stolte. Le vergini sagge tengono le lampade accese nell'attesa del ritorno dei loro promessi sposi. Le vergini stolte invece pensano a divertirsi, fanno spegnere le lanterne e quando i promessi sposi arrivano non riescono a riconoscere le case e non le sposeranno. Esiste anche l'altra lettura di questa parabola che è legata alle spose, fedeli e le spose stolte. Le spose fedeli vedono i propri mariti partire in viaggio, si preoccupano di tenere la lanterna sulla finestra di casa accesa di giorno e di notte, in modo che il marito riesca, un po' come se fosse un faro questa lanterna, a tornare alla propria casa. Le spose stolte non se ne curano e lasciano tranquillamente che queste lanterne si spengano. Quando i mariti tornano, riescono a ritornare soltanto dalle spose sagge. Guardate che a fine 1300 questa parabola verrà più volte realizzata attraverso la scultura sui portali delle cattedrali, proprio nel nord Europa. E in modo molto particolare in alcune di queste cattedrali, soprattutto, se non ricordo male, proprio nel portale del Duomo di Ratisbona, le giovani stolte hanno scolpite sulla schiena una serie di lucertole e di rospi. Perché la sposa stolta non solo non si preoccupa del ritorno del marito, ma approfitta dell'assenza del marito per tradirlo con altri. E i rospi solitamente rappresentano la lussuria, attaccano i lussuriosi. Molte delle figure presenti in questo inferno hanno dei rospi che le mangiano, che le divorano. Volevo vedere se le avevo inserite. No. La ragazza che si specchia nel sedere di un diavolo, qui sotto i piedi di Lucifero, ha dei rospi posati sul petto. Perché nel sedere? Perché tutto il lavoro che abbiamo fatto. Sembrano le braccia e la testa. Ah, se preferite, sono le braccia e la testa. Anche qui ognuno di noi poi può leggere quello che preferisce, vero? Vediamo un po' di vederlo meglio, perché questo l'abbiamo tra i dettagli. Vediamo. Iniziate a essere stanchi? Vediamo se è questa. Eccola. Vedete che ha un rospo posato proprio sul petto. Ecco, nella tradizione dell'epoca questi rospi rappresentano proprio la lussuria. E in questo caso noi abbiamo allora due peccati contemporaneamente, lussuria e vanità. Perché lei si sta specchiando. Lo specchio è sempre legato alla vanitas, sempre, proprio a livello tradizionale. Però, scusi, tipo agli occhi chiusi, e sembra più che l'animale, che non capisco se è un asino, che cosa sia, che la tiene. Un lupo. Ma si sta specchiando insieme a lei. Comunque, sembra che gli occhi la odiano. Ah, certo. D'altra parte siamo in una situazione di supplizio, vero? È un inferno. Svenuta per la paura. Potrebbe anche essere svenuta per il terrore. Certo è che appunto, secondo la lettura dell'epoca, il rospo rappresenta questo. C'è sempre un elemento negativo, sempre perché, ricordatevi, vero, rientra tra quelle bestie cadute dal cielo insieme alla cacciata di Lucifero. La sta abbracciando. Sembrava avesse un fosso, o è soltanto il dipinto? Che sembra quasi che abbia un taglio, avesse, sì, una corazza. E vediamo tra l'altro che c'è costantemente quest'idea di bocca aperta. Il supplizio di Tondalo viene anche illustrato da altri artisti. Non è improbabile che questa tavola di Bosch influisca in modo sostanziale sulla fantasia di altri. Noi abbiamo le orecchie, se vi ricordate, in questo inferno, abbiamo un bel paio d'orecchie tagliate. Ecco qui. Con dietro la forca, sono tra l'altro, se notate, no, infilzate da una freccia, con diavoli che si tirano fuori da sotto queste orecchie i dannati o che li inseguono. Anche qui, se notate, abbiamo tutta una serie di sederi a vista e abbiamo il coltello sulla cui lama è segnata questa M di cui dicevamo la settimana scorsa. C'è anche chi la legge come B di Bosch. Finché non troviamo il testo scritto, non sappiamo effettivamente se sia la M di cui ci parla anche Dante o se sia una B di Bosch o se sia il simbolo di una congregazione particolare, perché qui vi dicevo, no? Abbiamo vari stendardi che rappresentano varie situazioni. Un artista contemporaneo a Bosch ritrae la stessa scena dandoci un orecchio allo spiedo, e chi mette allo spiedo questo enorme orecchio sono dei maiali, un orso e un maiale, o un cinghiale se preferite. Lo spiedo ha lo stesso meccanismo della ghironda, dello strumento musicale che ha questa manovella nella parte superiore. Cos'è di interessante questa immagine che trovate con facilità anche in internet? Ci dà il calderone che abbiamo lasciato sulla testa del diavolo, che è anche il calderone che voi troverete in tutto l'immaginario visivo legato alle streghe, vero? Pensate anche Disney quanto ne faccia uso con Biancaneve, le pozioni magiche dentro a questi enormi calderoni. Pensate anche alla spada nella roccia, no? La strega splendida, unica e magica, Maga Magò, che fa le pozioni magiche dentro a questi calderoni giganteschi. Eccolo qui. E abbiamo probabilmente una strega che sta rendendo omaggio ad un banchetto che è dentro a questa enorme bocca aperta, che ci ricorda non solo le orecchie tagliate, ma ci ricorda anche l'uovo marciscente, no? Il retro di quest'uomo albero che abbiamo visto la settimana scorsa. Eccolo qui. Qui dentro noi abbiamo un banchetto, esattamente come dentro a questa bocca. Cos'è? In questo caso è più difficile riuscire, no, a identificarne la matrice. Qui è molto più semplice. Questa è una bocca dell'inferno, pari pari, secondo proprio la tradizione iconografica tardo-gotica. Solitamente è una bocca di lupo, con dei denti che ricordano più che i denti del lupo, i denti del cinghiale. Questa bocca è un po' sorella di Medusa, della bocca di Medusa. Viene utilizzata nelle sacre rappresentazioni dal 1000 in poi, forse anche prima. Forse ne abbiamo anche già parlato. Veniva allestita proprio, no, all'interno delle chiese e c'era sempre questo grande calderone, sicuramente fratello di quello delle pozioni magiche, pieno di pece, per dare l'odore proprio dell'inferno. Molte immagini che noi conosciamo di questa bocca dell'inferno ce lo danno con dentro dei personaggi che possono essere diavoli, ma possono anche essere dei personaggi che stanno banchettando. Grande bocca aperta, sempre con denti di lupo, qui siamo dopo, in un'opera realizzata da Il Greco. Ma era giusto per darvi, vediamo, eccolo qui. Questo è proprio un disegno dipinto, e volutamente lo chiamo in questo modo, di fine 200. È una piccola bozza per una miniatura. Sono santi che stanno mangiando del banchetto mistico, imprigionati dentro all'inferno. Ricordano, se andiamo a vedere la matrice proprio medievale, ricordano i tre fanciulli nella fornace, che era una leggenda molto amata nell'epoca paleocristiana, di questi bimbi buoni, innocenti, gettati per dispetto dentro ad un forno. I bimbi non bruciarono, proprio perché erano in grazia di Dio ed erano stati battezzati. È un'immagine che nelle catacombe troviamo abbastanza di frequente. Trasportata poi nell'immaginario visivo medievale all'interno della bocca dell'inferno e trasformata ovviamente in sacra rappresentazione. Ecco che allora l'albero uomo diventerebbe una sorta di bocca dell'inferno se ne dessimo questa medesima lettura, incredibilmente vicina appunto alle sacre rappresentazioni. Ma capite che è una possibilità. Certo è che la bocca dell'inferno è sempre legata al diavolo. Nel gioco o nella più profonda serietà abbiamo questa immagine molto, molto forte. E volevo farvi vedere dello stesso periodo tutta una serie di altre rappresentazioni legate sempre a questa bocca dell'inferno, che ci dà, vedete, a volte non necessariamente un lupo, ma ci dà una situazione di albero rotto, di guscio d'uovo rotto, di qualche cosa che fosse sferico e che si sia bucato, e ci dà rospi, mostri, quegli stessi mostri che poi anche nell'immaginario slavo daranno vita alle streghe. Baba Yaga ha un aspetto molto simile, che è la strega delle streghe. Quest'idea, guardate, anche questo è di un anonimo, di una bocca aperta, di una maschera, che è anche casa, e guardate che questo ricorda in modo incredibile uno dei giochi degli arcimboldi, dove si può leggere un soggetto in orizzontale o in verticale o rovesciato, ed è sempre una casa albero, anche quella degli arcimboldi. È qualcosa di marcio, e questo elemento che vedete è una civetta. Siamo in una situazione infernale, abbiamo dei disperati che cercano di salire nella parte più alta, che ricorda, se notate questo pezzo, per chi tra voi già abbia visto Le tentazioni di Sant'Antonio, uno degli elementi presenti dentro l'opera, ma di questo noi parleremo nelle prossime lezioni, porta come titolo, pensate un po', la discesa agli inferi. Chi scende agli inferi? Beh, qui abbiamo due possibilità. O agli inferi scendono i dannati, e quindi scendono per l'eternità in questa che è anche una palude Stigia, vedete? Il fiume infernale che si oltrepassa per entrare all'inferno. Oppure a scendere agli inferi, secondo un'antica leggenda, è Cristo stesso, che la notte del Venerdì Santo, anziché morire, scende agli inferi e va a liberare tutti coloro che sono chiusi all'inferno. Stesso periodo storico, sempre nelle Fiandre, altro anonimo, ci dà una discesa agli inferi da parte di Cristo. Cristo entra all'inferno come un guerriero, abbatte la porta degli inferi, schiacciando già subito una serie di diavoli, e va a liberare coloro che per secoli sono stati all'inferno. Questa tavola è interessantissima perché, se notate, all'apice di questa struttura, che ricorda un po' anche la Torre di Babele, realizzata da Bruegel qualche anno più tardi, ci dà questa sorta di zucca con un elemento a gettate che sembra quell'oggetto strano con le chele che noi abbiamo lasciato negli sportelli esterni della tavola delle delizie di Bosch. E serve per darci un impiccato. Abbiamo un personaggio che cavalca un coltello, e abbiamo un incendio che ricorda in modo incredibile l'incendio dell'inferno di Bosch, con impiccati, stendardi e quant'altro, angeli negativi che volano, città murata, calderoni, bocca dell'inferno. Se notate, il grillo che costituisce la bocca dell'inferno ha una forma che ricorda vagamente un rospo. e la sua bocca corrisponde anche alla sua pancia. È come se fosse la stessa cosa, no? Una bocca talmente grande da arrivare fino allo stomaco, come se fosse proprio la bocca di una rana, ma che si allunga anche nelle viscere. Strabico, vero? Perché il diavolo non conosce la retta via e quindi può seguirne due contemporaneamente e quindi non andare da nessuna parte. Alberi ai quali sono appesi brocche, esattamente come in Bosch, uomini scorticati, appesi a testa in giù, rospi, granchi, lucertole, persone che vomitano denaro, noi l'abbiamo visto defecare invece il denaro, per cui gli avari, l'imbuto della saggezza, ve lo ricordate in testa al chirurgo che liberava dalla pazzia, che viene utilizzato non per versare liquido ma per far entrare in una sorta di palude le anime dei dannati. Per cui altra possibile lettura di questa bocca, no? Legata appunto all'uomo albero. E se notate, no, anche per come è costruito quest'uomo albero, la vicinanza alle orecchie tagliate con il coltello è molto vicino a quest'altro anonimo. Ripeto, l'anonimo prende da Bosch. La cosa interessante è che va a leggere l'uomo albero come se fosse la bocca dell'inferno. Esiste un'opera molto interessante. Quindi è escluso che sia Bosch? È escluso, è attribuito, ma la mano è proprio una cosa diversa. Insomma, chi l'ha attribuito probabilmente l'ha fatto per motivi economici. Ma posso dire solo una cosa? Dimmi. A livello dello sguardo, in medievale avevamo detto che il, cioè, il contrario, il Cristo viene rappresentato con gli occhi strabici. Ma è quello un altro discorso. Però viene trascinato. Quello strabismo è uno strabismo che ha un occhio verso l'interno e un occhio verso l'esterno. Questo è uno strabismo legato proprio all'essere stolti. La ghironda, no, dicevamo anche la settimana scorsa, per esempio, è lo strumento musicale che tradizionalmente veniva suonato dai ciechi, da coloro che non vedevano. E ci torneremo, perché poi quando Bosch metterà in scena, su tavola ovviamente, la figura degli stolti, ce li darà come dei ciechi. A mettere in scena una strana bocca dell'inferno e a ricordarci questa ambientazione è proprio Bruegel il Vecchio, un artista che ancora una volta, per fortuna vostra, è un vero sconosciuto, nel senso che non sappiamo quasi niente di lui. Studiare la sua biografia è facilissimo perché non abbiamo quasi nulla. Addirittura non sappiamo con precisione nemmeno dove sia nato. E il nome Bruegel, proprio per questo, viene attribuito a potenzialmente un villaggio. Ma altri invece lo riconoscono come una sorta di soprannome dato per il mestiere che faceva. C'è una serie di letture che vengono date non sapendo appunto esattamente i natali di quest'uomo dove siano avvenuti. Sappiamo che vive nasce sicuramente alla fine del 1400, inizi 1500. Sappiamo per certo che conosce le opere perlomeno di Hieronymus Bosch. Appunto che molte delle opere di Bruegel in un primo periodo vennero lette come opere di Hieronymus Bosch. È uno dei due pittori visionari delle Fiandre, insieme a Bosch. Nelle sue opere noi troviamo grilli, mostri, diavoli, deformazioni. Una pittura maniacale, ossessiva. Realizza per esempio una tavola di incredibile interesse in cui ci dà tutti i giochi dei bambini del 400. E abbiamo centinaia di bambini realizzati in dimensioni di qualche centimetro, dipinti nei minimi dettagli, anche con i bottoni delle giacche, dove ogni coppia di bimbo, due o tre bimbi, fanno giochi diversi, e sono un centinaio di giochi. Per cui una tavola demenziale, tanto è ricca di dettagli. Questo, vi ripeto, è frutto proprio di scuole legate alla miniatura, cioè abituati ad artisti capaci di lavorare proprio su microscopiche superfici. Per cui sicuramente anche la formazione di Bruegel è legata al mondo della miniatura. Noi sappiamo che nel 1551 Bruegel appare legato alla corporazione di San Luca ad Anversa. San Luca era uno dei santi protettori proprio dei pittori. Sappiamo che diventa, dopo il 1551, uno dei pittori amatissimi alla corte dell'imperatore Carlo V, per cui un pittore di corte. Sappiamo che edita una serie di stampe firmate Bosch, per cui viene pagato per firmarsi Bosch, da un editore, Koch, un editore sempre di Anversa. Guardate che non era plagio, era vendere. In Olanda accadrà la stessa cosa con i manoscritti di Vivaldi, di Antonio Vivaldi. Pacchi e pacchi di musica firmata Antonio Vivaldi, che di Vivaldi assolutamente non è. Perché vende di più, perché è un nome conosciuto. Bruegel si firma Bosch per un buon periodo della vita perché fa vendere. Ma Bosch è a conoscenza di questo? Non si sa. No. Bosch è già morto nel 1551, okay. Vero? E proprio perché è morto, non ci sono più opere sue da vendere. Perlomeno. Non sono neanche conosciuti, quindi. Probabilmente no. Ma siccome vende bene, e questo editore, questo stampatore, lo sa bene, gli commissiona tutta una serie di lavori che spaccia per lavori di Bosch. Questa è una cosa proprio nota, storicamente dimostrabile. Sappiamo che compie anche un viaggio di cultura in Italia, pensate un po', siamo nel 1500, siamo ancora agli albori del viaggio culturale in Italia. Sappiamo che scende attraverso le Alpi, per cui anziché scendere attraverso il Brennero, scende attraverso Como, da parte svizzera, diciamo. Sappiamo che durante questo viaggio sosta per un breve periodo anche a Lione e ha contatti con tutta una serie di stampatori. Scende a Roma, Napoli, arriva fino a Reggio Calabria e risale per avere più o meno dal 1562 una forte attività artistica nei Paesi Bassi, per cui non si ferma solo in una città, diciamo che come punto d'appoggio a Anversa. E successivamente nel 1563 si stabilisce a Bruxelles, perché sposa una donna, figlia del proprio maestro, o perlomeno un maestro che ha avuto da un certo periodo della sua vita in poi, chiamato, credo, Koch, non so come si pronunci, C-O-E-C-K-E. Koch. Koch. Ma è lo stesso nome dell'editore? No, l'editore è un altro, C-O-C-K, Koch. S'assomigliano ma non sono la stessa persona, assolutamente. Grande attività, commissioni appunto reali, imperiali, di lui non sappiamo altro. Capite che è la biografia doc per uno studente. Perché parliamo di Bruegel? Perché nel 1561, per cui è già stato in Italia, ha già visto i reperti antichi, romani, eccetera, realizza quest'opera intitolata, lei mi corregga la pronuncia perché tanto io non lo so, Dule Grit, Greta la pazza, può essere che si dica così? Non ne ho idea. Greta la pazza. Oh, su quest'opera si è scritto di tutto e di più. Intanto trovate Greta qui, perché un po' viene assorbita da questi colori abbastanza omogenei e quasi monocorde. Greta la pazza è un personaggio probabilmente legato al folklore fiammingo, un po' come, non so, può essere stato Gianni a Firenze o, non so, altri personaggi che diventano modi di dire, che diventano così figure quasi mitologiche. Greta la pazza, secondo alcuni, però è anche legata alla memoria, all'immagine di Santa Margherita d'Avila. Cosa c'entra Santa Margherita? Ah, scusate, non d'Avila, d'Antiochia, per Santa Teresa. Santa Margherita d'Antiochia, che secondo la leggenda osò sfidare il diavolo andando all'inferno e combattendolo a padellate. Da qui l'idea appunto di rappresentarla anche a livello iconografico, molte volte con una corazza addosso, con un sacco pieno di padelle, di mestoli, di oggetti che appartengono alla cucina, e spesso raffigurata con uno scrigno anche di gioielli sotto il braccio. Probabilmente i gioielli che portava sotto il braccio servivano per attirare l'attenzione del diavolo o erano la scusa per arrivare fino al diavolo, fino a Lucifero, per poterlo poi uccidere. Greta, il significato del nome Greta, a seconda delle tradizioni che diamo, è il contrario dell'inferno, per cui è la regina delle nevi. È un nome nordico, ma Greta può anche significare colei che compare in mezzo alla pioggia. Qualcuno la traduce anche come dono del cielo, e qui giustifica l'idea di cadere dalla pioggia e anche della regina della neve. Qualcun altro anche la legge come angelo caduto. Greta la pazza, secondo la leggenda fiamminga, è una strega, è un po' la Baba Yaga appunto del mondo slavo. È una strega che fa pozioni magiche e che si comporta da pazza. Cos'ha di particolare questa Greta o Margherita? Dipende sempre da come preferiamo leggerla. Vediamola per un attimo fuori dal caos. Possiamo fare una piccola pausa? Sì. Solo piccolissima. Allora, prima di parlare di Greta, caffè. Solo lei lo pensa? No, lo state pensando io tutti. Nessuno ha il coraggio di dirlo. Avevamo già detto che eravamo un po' stanchi, pensavamo di aver lanciato. Ma voi credete che io vi senta? Cioè. Ecco, voi fate pausa caffè che oggi io finisco la mela. Provare a fare assolutamente sì. Noi parleremo del principio del fiore. Okay. Sarà la prossima puntata su Bosch. Va bene. E anche quello di Sant'Antonio, poi. Quello di Sant'Antonio credo di no. Perché quello mi attirava il fatto del, che al centro ho letto del pannello che c'è la messa nera. Certo. E quindi anche da paragonare magari un altro, fare l'opposto, il rito della messa nera con il rito poi della crocifissione che è rappresentata in quello di San Lorenzo di Michelangelo. Certo. Quindi posso, sì, posso iniziare sì. Con questo. Va bene, perfetto, benissimo. Grazie, allora. Volevo scegliere sinceramente un'opera anche di Bosch che non abbiamo fatto, anche per vedere come riesco io ad analizzare un'opera che non abbiamo ancora affrontato. Però gli ha dato un taglio completamente diverso, per cui sì, assolutamente sì. Va bene, grazie. Prego. Thank you. Ieri. I fogli sono dentro l'armadio. Domenica sono andata al Balun di Porta Palanco e mia sorella ha comprato una bicicletta vecchia che ha pagato 30 euro. Vicino alla bicicletta per terra c'era un libro gigantesco, bellissimo, con il trittico di Bosch, tutto spiegato, ma bello, veramente neanche mai aperto. E vicino, infatti ho comprato anche quello e ne ha parlato oggi, c'era un piccolo libricino di Van Eyck e tanti testi, credo, scritti da questo Koch, ancora non l'ho letto. E infatti mi sono detta, guarda, aspettavo proprio e il libro è illustrato benissimo, ma il libro grosso, così glielo porto a vedere la prossima settimana. Bellissimo. Non è quello dell'edizione Taschen, vero? No, perché è proprio grosso in... C'è un'edizione Taschen, nella Taschen... Non gli opuscono proprio le pubblicazioni in tasche. Sì, ok. Allora in velluto rosso. La prima edizione era in velluto allora rosso. È quello, perché... È costoso, eh? Io l'ho pagato 15 euro. Ecco, lei calcoli che la riedizione senza la copertina in velluto oggi viene sugli 89 euro. Ma era lì tutti e due, della pittura fiammiglia, ho detto, caspita, è il mio corso. 15 euro. 15 euro tutti e due, perché poi c'era quello piccolino. Tutti e due? Eh sì, perché io ho contestato un po', prima costava 20 euro, ho detto, no, caspita, 20 euro, la pittura fiamminga, chi legge la pittura fiamminga, va bene. Allora il signore mi ha detto 15 euro, io ho detto, questo Van Eyck, e lui mi dice, ah, questo 5, ho detto, per piacere, ve ne dia 15 euro tutti e due, mi ha dato 15 euro tutti e due. Me lo raccontate. Sì, ma infatti ho detto tornerò a Porta Palazzo perché nelle bancarelle io era da anni, questa cosa. Domenica sono andata, domenica. Ma era pieno, tutta la... al Balù, ma era pieno di libri, pieno, e questi qua erano lì davanti, il mio corso. Mi scusi per una pausa caffè, ma ho fatto la notte al mio babbo e sto tornando. Devi chiedere una cosa, ci sentono sì. Per il paragone delle due opere di arte moderna, io avevo pensato a coniugi Arnolfini, soffermandomi però sullo specchio convesso e facendo un paragone con il Savoldo di Lorenzo Lotto. Sì. È possibile, stavo leggendo questi due libri che parlano proprio del paragone fra le arti, in un capitolo in particolare. Quindi su tutta la disputa, quindi cercare... E questo qui è molto bello. Sì. Non so. Sì. Può andare? Ci sta. Ok. Che mi interessava proprio, cioè, la ricerca di comunque dare una triplice visione. In questo caso Lotto che... Mi sento frequentare il corso l'anno scorso, l'ho sugli specchi. È un corso bellissimo. Bellissimo per il corsista, molto stimolante. Molto certo. Bello, abbiamo analizzato varie situazioni e ovviamente siamo partiti, cioè non siamo partiti da lì. Era tra le opere, entrambe erano le opere. Ok, vabbè. Allora vado avanti. Sì, assolutamente sì. Grazie. Prego. Cosa dite, riprendiamo? Ce la fate? Non sembra. Beccato proprio. Infatti ce l'eravamo scordata. Una volta sono provato a mettere un'altra cosa, ma non è buon buon, la piastra non funzionerà più. Ricominciamo? Riponete i vostri yogurt e si riprende. Scusate, potete chiudere? Grazie. Dicevamo Greta la pazza. Se lo vediamo nel dettaglio, ci siete? Se lo vediamo estrapolato da questo mondo infernale che la circonda, ci rendiamo conto che sembra proprio quella che noi oggi chiameremo una barbona più che una strega, cioè una persona che porta tutta la propria vita con sé, le proprie cose, perché non ha una fissa dimora. È come se tutta la casa anche fosse insieme a lei. Per cui ha un canestro sotto braccio, guardate, con dentro di tutto proprio, perché ha la padella, che ci fa ricordare appunto Santa Margherita, ma anche dei piatti, una brocca dentro la quale è infilata la padella, vediamo una cintura che fuori esce, poi ha un tegame, perché guardate che questo è un tegame, un piccolo caldare, con il manico tipico proprio da appendere al camino, con dentro altre vettovaglie, per cui ha degli altri piattini, delle scatole. Questo che vedete, questo fagotto, di fatto è il grembiule che ha sollevato e ha riempito di cose. Si vede fuoriuscire una brocca di peltro. Ha un corpetto corazzato, se notate. Ha un elmo in testa che ricorda un po' i nostri scolapasta. Ha abiti semplicissimi, no? Addirittura ha una sottana che le copre le ginocchia, ma non è lunga fino a terra, questo è indice di povertà. Tanta stoffa, grande ricchezza, e il contrario, ovviamente, poca stoffa, povertà, indigenza. Ha a vista la sottoveste, perché questa che vedete bianca non è una camicia, è una sottoveste. E indossa, in modo incredibile, un coprispalle, diremo oggi, di velluto rosso. Sembra quasi porco, sembra quasi bisso, tanto è bello questo velluto. La sua mano sinistra è guantata con un guanto da combattimento, per cui è un guanto corazzato. E a destra impugna una lunga spada. Non è giovane, ma non è neanche vecchissima. Non ha i capelli bianchi, vedete? Un volto molto segnato, forse anche le manca qualche dente, proprio per come le vediamo il labbro superiore. Oltre a tutte queste cose che ha addosso e che porta con sé, ha anche questo scrigno chiuso, una piccola cassaforte. Questo è proprio un piccolo forziere, per cui dentro a scrigni come questi si tengono sempre monete e gioielli. Legato probabilmente alla cintola, ha un coltello. Come tutte le brave massaie hanno fatto fino a metà del 1900. Le mamme solitamente, vi parlo di mamme, è vero che vestivano più sottane, portavano sempre in una delle tasche un coltellino, perché poteva servire a qualsiasi cosa, dallo sbucciare la frutta per il figlio al tagliare un filo che sporgeva. Il fatto di vedere un coltello legato alla vita non è una stranezza, assolutamente. Anzi, alcune nonne sarde o siciliane che indossano ancora gli abiti tradizionali, per cui più sottane, sotto a una di queste sottane sicuramente portano un coltello, che può servire a molte cose nella loro giusta e saggia mentalità. Non solo a sbucciare o a tagliare, anche a difendersi. Certo non viaggiano in aereo, vero, queste nonne? Per cui diciamo questo coltello non è una stranezza, forse è più strano il fatto di vederla con questa lunga spada e di vederla con un corsetto. Perché vi faccio il paragone con una barbona? Perché queste donne che vivono per strada raccolgono tutto quello che può tornare utile. Oggi non usano più i grembiuli e usano questi enormi sacchetti di nylon, ma è l'idea, insomma, di portare con sé tutto ciò che si possiede sempre. E quindi in molte situazioni anche più vestiti addosso, per non portarli dentro a questi fagotti, no? Gli aeroporti ci hanno abituati anche a questo, a indossare più abiti. Chi viaggia con certe compagnie sa di che cosa parlo. Vabbè. Di conseguenza, più che più che una santa martire, sembra proprio una donna folle. E anche la santa, anche Santa Margherita, è folle, ma rientra nel concetto trecentesco di follia. I folli di Dio sono alcuni santi che si comportano in modo talmente estremo da rasentare la follia. San Francesco d'Assisi, per la sua povertà, veniva considerato anche un folle di Dio. Per cui non sono malati mentali, perlomeno apparentemente, no? Rientrano invece in quella categoria di folli che agiscono non come farebbe la maggior parte delle persone. Per cui sono folli non perché malati, ma folli perché non rispettano le regole, diciamo così, della società. Vanno contro alle regole canoniche della società. Ecco, probabilmente Greta o Margherita erano questo. Andavano fuori dagli schemi rispetto al modo di vestire, il modo di pensare di una società dentro la quale loro si sono ritrovate a vivere. Torniamo a vedere il quadro per intero. E ditemi voi che cosa vedete che già abbiamo incontrato. Uova rotte. E se notate ne abbiamo qui e abbiamo anche qui un'idea di qualche cosa di rotto. La bocca degli inferi. Bocca degli inferi. La città bruciata dietro. La città in fiamme. Le rane rospi, tipo rane rospi, grilli di vari generi, qui rospi, vero, locuste, manguste, c'è un po' di tutto. Una sfera di vetri in cima alla barca. Questa specie di bolla su una barca. Qualcos'altro? Uno strumento musicale, per cui questa cetra, questa arpa piccola che abbiamo lasciato nell'inferno musicale, degli ibridi, mostri di vari generi, stendardi, e anche qui con varie insegne, anche qui probabilmente di varie corporazioni. Altro? Ma in fondo è una brocca gigante lì sulla... Quale dici? Vicino a quella specie di pallina di Natale. Un signore che tiene sulla schiena una barca e che sembra stia defecando qualche cosa. Questo strano uomo seduto, che sta defecando, o si sta, guardate, o si sta battendo una padella, un bastone, qualcosa... sulle natiche, che però non ci sono più, vedete, è sfondato praticamente. E sta defecando denaro. Qui vi aiuto io perché si vede poco, ingrandito così tanto. Guardate la barca che ha sulla testa, che è chiusa da una sfera di vetro. Non notate qualcosa di particolare? Hanno dei piatti tipo... C'è un enorme piatto e quello che sta sopra non è una zampogna, è un pollo cotto. che abbiamo lasciato nella nave dei folli. Però qui non ce l'abbiamo l'albero, vedete? Ci manca l'albero della cuccagna. Abbiamo invece la campana, che abbiamo lasciato sempre nell'inferno. Abbiamo una città in fuoco, ma che è anche in rovina. Guardate questa torre che è crollata. A salire, se notate, su una nave che non c'è, che noi perlomeno non riusciamo a vedere, o su un palo posto come se fosse su una nave con una piattaforma d'avvistamento, anziché avere dei personaggi abbiamo degli enormi rospi che hanno la testa dentro ad una gabbia, questo perlomeno, la testa ingabbiata proprio, altri rospi che fanno acrobazie, mostre in volo, eccoli qui. Qui sopra, se notate, sembra quasi esserci un sabba, no? Una danza circolare di streghe, di mostri, di rospi. E se notate, qui abbiamo una specie di abside che contiene un uovo che è marcio, rotto, con un'arpa legata, che pende, e qui abbiamo dei topi, dovete un po' fidarvi, dei topi che stanno fuori uscendo, altre bisce, vipere, e qui abbiamo un piccolo micro banchetto, ci ricorda un po' il banchetto che abbiamo lasciato dentro l'uovo e dentro la bocca dell'inferno. Sopra questa abside crollata nasce un albero che è a tre livelli digradanti, sorretti da una gabbia con dentro delle strane bestie che non riusciamo a riconoscere. Se ci spostiamo, troviamo questa sorta di damigiana di vetro che contiene delle ragazze nude, appese, se notate, a questa specie di rostro che non capiamo bene di che natura sia, potrebbe essere anche qui una chela gigante. Qui abbiamo una lanterna accesa, sospesa, l'enorme caraffa che avete notato, un paesaggio all'orizzonte, qualche uccello qua e là, eccoli qui, questa particolarissima bocca dell'inferno che sembra quasi doppia, perché se notate qui abbiamo un crollo, no, di questa struttura che ci dà una tavola che ricorda un po' i ponti levatoi, ma anche le tavole per gli arrembaggi sulle navi nemiche. E un dettaglio, adesso magari lo vediamo più grande, che volevo vedeste perché dovrebbe ricordarvi qualcosa che noi già abbiamo visto. Oh, anche qui, se notate, dentro alla bocca abbiamo strani personaggi, mostri, grilli. Guardate questo personaggio che di fatto è un elmo che va all'attacco della bocca dell'inferno. Sopracciglia. Cos'hai detto? Non ho sentito. No, sembra che abbia un piercing. Un piercing? Ma io temo che questo piercing sia un serpente. Una radice. Una radice, guardate, sembrano peli del naso diventati radici. O addirittura un piercing, perché no? Caraffe vuote. E poi, guardate un po'. Ecco, è questo tipo di sportellino? Esatto, uno scuro, no? Vi ricordate la bottega di San, del povero San Giuseppe? Il che significa che questo mostro non ha ciglia, o meglio non ha palpebre, e le palpebre sono ante di negozi, vetrine di negozi. E l'altro occhio infatti c'è una luce dietro, come se fosse un vetro. E abbiamo sempre, vero, sì, l'anta, diciamo così, alzata. Tre uccelli, tre corvi neri posati sopra, e se notate bene non si riesce a capire di che cosa sia questa testa, no? Perché potrebbe essere roccia, potrebbe essere anche un pesce, potrebbe essere vegetale, cioè non si capisce bene il materiale in cui è pensata questa testa dell'inferno. Il mostro, o questo gigante come viene chiamato da alcuni critici, veste in rosa, è un colore chiaro e è molto simile, ricorda vagamente alla veste del Cristo, se vi ricordate, nel paradiso terrestre. L'idea del vetro circolare, luminescente, a me ricorda, non so a voi, ricorda un po' anche il pentolone sulla testa dell'uccello nell'inferno. È posizionato sulla testa di questo gigante. Ricorda un po' questo grande tegamone, no? Che porta il diavolo in testa. Se notate, dentro alla barca noi abbiamo dei mostri che reggono questo vassoio con il pollo, che possono essere appunto idea di tentazione. E qui abbiamo un altro mostro che afferra una sfera, sembra quasi cercare di gettarla fuori. E se guardate bene, quello che sta facendo è quello di svuotare le proprie natiche, o quello che resta del proprio bacino, da tutta una serie di monete nere, buttandole fuori con un mestolo. È come se stesse donando la propria ricchezza, che ricorda però sinceramente delle feci, a chi lo circonda, a chi sta sotto a prendere questo dono. Perché se notate sotto abbiamo veramente una grande quantità di persone con le mani alzate che tentano anche con dei vassoi di raccogliere queste monete. E poi vediamo da vicino questa danza macabra, questo sabba. Vedete che abbiamo un topo, sembra un topo, suonare una tromba. Questa è una tromba ricurva, una tromba egizia. E quindi ancora l'idea di questi strumenti a fiato e della cacofonia. Oh, è uno strumento che emette tre suoni, vero? Non di più. Greta, dicevamo, tiene questo pentolone, no? Questa padella, e se legata a Santa Margherita sappiamo bene a che cosa serva. Ora, buona parte della critica sostiene che qui abbiamo questa Greta, o Santa Margherita, guardate che alla fine è la stessa idea, la stessa persona, incurante, completamente incurante di tutta la bolgia infernale, che va dritta per la sua strada verso l'inferno, per entrare all'inferno e sconfiggere il diavolo a padellate. Questo è interessante e vi invito a ricordare bene, perché oggi non riusciremo a vederlo, a ricordare bene l'idea di questa padella, che se la rimpiccioliamo diventa un mestolo anche, e del fagotto, perché la ritroveremo in un'altra opera di Bruegel. Ma qui a me interessa anche farvi notare una vicinanza interessante, ancora una volta, all'idea dei tarocchi. Guardate che siamo esattamente nel periodo in cui i Visconti si fanno realizzare un famosissimo mazzo di carte proprio da Andrea Mantegna. sotto tra l'altro consiglio per tutta la simbologia direttamente derivante da Bembo. Lasciando perdere queste due carte, concentriamoci su questa, che è la carta del matto, di cui già abbiamo parlato, però non l'avete vista. Il matto ci viene raffigurato senza brache, senza pantaloni, con le calze abbassate, in mutande, per cui nudità e follia spesso vanno sotto braccio, con delle strane spighe in testa, che ricorda molto la festa delle segale di cui già abbiamo parlato quando abbiamo parlato del carnasciale, con una mazza, un bastone. Guardate che in moltissime raffigurazioni del matto dei tarocchi a questo bastone è appeso un fagotto, un sacchetto, che ricorda proprio il sacchetto dei poveri, no? Che anche Chaplin renderà famosissimo nel suo interpretare Charlot. Charlot di solito usa il suo bastone da passeggio per questo fagotto. Questo è uno dei mazzi dell'epoca, ma volevo vedeste sempre nello stesso mazzo anche la raffigurazione della giustizia, che è questo centrale. Lei regge con la mano sinistra una bilancia che ha due piatti e con la destra una lunga spada. La giustizia è colei che con misura giudica e punisce. È una spada molto simile a quella che ha in mano Greta. E se vogliamo un po' forzare la lettura, i due canestri, o meglio il tegame e il canestro, potrebbero vagamente ricordarci i due piatti della bilancia. Tiene i canestri, per cui pentolone da camino e canestro, esattamente con la mano sinistra, e con la destra impugna la lunga spada. Non è rivolta verso l'alto, ma è puntata verso la bocca dell'inferno. Potrebbe essere una sorta di giustizia popolare, no? Una rilettura della carta della giustizia. Guardate che sono elementi che molto influenzano gli artisti, gli elementi segnati sulle carte dei tarocchi. E se notate poi in basso qui, noi ci ritroviamo ad avere la scena così, una rilettura se volete, del baro che abbiamo lasciato nell'inferno di Bosch. Tavolo rovesciato, coltello, che ci ricorda appunto la punizione inflitta ai bari, no? Che era quella di piantare un pugnale sulla mano. Saggezza persa, perché se notate qui abbiamo dei mostri con gli imbuti in testa, abbiamo scene d'ira, rivolte popolari, il peccato di gola, per cui l'eccesso, il latrocinio, per cui il fatto di rubare a dei cadaveri, mostri in primo piano, mostri rospi con dei panieri in testa che pescano, utilizzando dei corvi come esca, dentro ad un uovo dentro il quale si intravedono altre persone. Uccelli bizzarri, mostruosità con i cappelli, teste rovesciate, questa vedete che è proprio una testa, con le braccia a rovescio, appoggiate su un paio di stivali, e al posto del corpo a rovescio abbiamo un cucchiaio. È l'inferno, il peggio del peggio. Ma è un elemento interessante, perché? Perché se diamo l'altra lettura a Greta e la intendiamo come strega, abbiamo alcuni elementi che ci aiutano a capire il concetto di strega nel 400. Lei ha i capelli sciolti e va in giro vestita portando con sé come una pazza qualsiasi oggetto. Noi 100 anni più tardi avremo un artista molto particolare, poco frequentato purtroppo nelle nostre aule, che è Salvator Rosa. Nasce nel 1615. Questo è un artista napoletano che si forma proprio come scuola nella scuola napoletana, e quindi una scuola che risente fortemente della matrice spagnola, vero? Siamo ancora in un periodo in cui Napoli è sotto la Spagna, e che poi si sposta per tutta una serie di commissioni a Roma. È un artista che lavora moltissimo sulla morte, il concetto di morte. L'uomo che medita sulla propria vita, secondo Salvator Rosa, si vede rispecchiato dentro ad un teschio, tiene in mano un teschio. Ricorda molto l'Amleto shakespeariano, no? Che è contemporaneo. Un personaggio losco, più di qualcuno ritiene anche fosse legato a possibili sette, legate proprio allo studio dell'alchimia, della magia. Guardate che immagine ci dà di Lucrezia Borgia, dandone una lettura deformata con gli occhi della pittura fiamminga. Ogni volta che la vedo mi fa venire in mente un'opera a lei più o meno contemporanea, a lei intendo alla tela, vero? Dipinge su tela Salvator Rosa, una sorta di controcanto al contrario della ragazza dall'orecchino di perla, no? Là abbiamo un'eleganza incredibile, un ordine, un rigore, il turbante azzurro in testa con l'orecchino di perla. Qui abbiamo l'idea medesima del turbante, ma completamente scombinato, con delle foglie di lauro che ricordano appunto la fama e la gloria. Ma lei è completamente scarmigliata, con i capelli in disordine, vestita come vestirebbe una contadina, cosa che ovviamente Lucrezia Borgia non è mai stata, con gli occhi spiritati di una pazza, di una malata di mente. Salvator Rosa dedicherà buona parte della propria attività. Scusi, e per lei non è stato un problema essere stata ritratta in questo modo? Per Lucrezia? Sì. Lucrezia era già morta. Povera anima. Nessuno si è arrabbiato perché la ritratta comunque in quel modo? Direi di no, anche perché comunque questa donna è stata ampiamente usata, proprio come un oggetto in mano al potere del padre, per cui, ed è passata alla storia come una delle più grandi avvelenatrici, colei che avvelenava i propri mariti. Credo che l'avremmo avvelenati pure noi, i nostri mariti, se ce li avesse scelti nostro padre solo per motivi economici e politici, mettendoci per di più in grave così imbarazzo, considerato poi che il padre era un papa, vero? Per cui c'è una donna che spesso viene ritratta proprio come una donna malvagia, dedita alla magia e legata ai filtri magici per uccidere o per fare innamorare di sé. No, Spesso Salvator Rosa ha dipinto dei sabba, cioè l'incontro tra streghe. Le streghe, secondo la tradizione popolare dell'epoca, si riunivano dentro a delle grotte, in luoghi umidi. Ricordano molto l'idea anche di maternità, di ventre materno. Di notte, perché ricordatevi, le streghe fanno parte del seguito di Satana, eh? Sono degli elementi demoniaci. Sono serve del diavolo. E in quanto schiave, serve del diavolo, sono donne nude. Quasi sempre ci vengono ritratte, anche da Salvator Rosa, nude, con i capelli spettinati, dei corpi cadenti, per cui questi corpi nudi non hanno nulla di avvenente, sono vecchi, grinzosi, i seni sono svuotati proprio dalla vecchiaia, sdentate molte volte, senza denti, sedute molto spesso per terra o con un contatto fisico con la terra, senza scarpe quasi sempre, capaci ovviamente di fare filtri magici. Ecco qui un vetro, un'ampolla di vetro in mano, il lauro utilizzato come bacchetta magica, e capaci anche di leggere il futuro, i vaticini attraverso le ossa, che sono anche però memoria di morte. Nude, perché appunto la pazzia porta a fare cose che stanno fuori dalla norma. Sedute a terra, perché per terra non ci si siede, e vecchie, perché l'avvenenza è eternamente giovane. Le fate sono giovani, le streghe sono vecchie. Se ci pensate, sempre nell'immaginario. Anche nei cartoni animati, la strega è vecchia, la fata è giovane. Pensate alla trasformazione proprio della matrigna di Biancaneve. Si trasforma in una vecchia, brutta, col nasone anche, secondo Disney. Venerano il diavolo, e guardate un po' come Salvator Rosa ci dà il diavolo, come uno scheletro di uccello, che ci ricorda in modo incredibile il Lucifero dell'inferno di Bosch, che è un uccello. Gli rendono omaggio, lo pregano, lo venerano, e questa è una sorta di messa nera, vedete? Con tanto di calice, per fare una sorta di contro-eucaristia. Sul fondo abbiamo una forca con degli impiccati, che ancora una volta ci ricorda molti degli orizzonti di Bosch. Pensate un po' che questo dipinto è in un medaglione dentro un palazzo aristocratico romano. Al posto della grottesca, noi abbiamo tutte scene di stregoneria. Ma quei due davanti sono uomini? Sono uomini, certo. Sono i servi delle streghe. Quelli che poi nella solita situazione di favola, di fiaba, sono gli apprendisti stregoni. Ecco qui le streghe, vedete, che si comportano proprio come la società non vuole. C'è sempre un impiccato, scheletro di uccello che rappresenta proprio il diavolo, nuda, con i capelli bianchi, tutti spettinati, e già a lungo abbiamo parlato di questi capelli, no? L'ordine, il rigore dei capelli, l'acconciatura, la confidenza. La strega, essendo borderline fuori dalla normalità, è costantemente spettinata, scarmigliata, non ha ordine. Siede appunto nuda, toccando la nuda terra. La cosa interessante appunto è che non abbiamo altre situazioni in cui il diavolo venga letto come un uccello. Abbiamo altre situazioni in cui il diavolo può essere letto come un mostro, come una sorta di animale preistorico. Ma lo scheletro d'uccello, che io ricordi perlomeno, lo troviamo soltanto in Salvator Rosa. Vediamo altri contemporanei, alcuni olandesi, come ritraggono l'idea della stregoneria. Vedete, grande calderone con dentro le varie pozioni magiche, una sorta di rito voodoo realizzato con un teschio dove si piantano coltelli e altri oggetti, libro di magia con il ricettario delle pozioni magiche, grilli e mostri sempre che partecipano e che prendono atto di questa situazione, vipere che servono per le pozioni magiche. Oh, la strega è sempre stralunata, ha sempre questo sguardo spiritato, mezza nuda, aiutata da assistenti, apprendisti stregoni e diavoli, sempre in situazioni da caverna, da grotta. Ecco, guardate un po' questa strega, e qui siamo nella prima metà del 1600, che scaccia i demoni, che cercano di rubarle il bottino. Usa il grembiule, esattamente come fa Greta, per tenere caraffe, collane, gioielli. Li scaccia con una spada e, se notate, abbiamo tutta una serie di aberrazioni, perché sono tutti grilli, ma sembrano quasi scheletri o perlomeno cadaveri di grilli. E abbiamo anche uno struzzo tra gli animali cacciati. Hanno cercato anche, guardate, di rubare la pozione magica. Pipistrelli, naturalmente, perché sicuramente siamo dentro ad una grotta. Guardate che questa idea arriverà attraverso Shakespeare fino a Fuseli, per cui quest'artista svizzero di fine Settecento, che andrà a realizzare i personaggi di Sogno di una notte di mezz'estate di William Shakespeare, e ci darà le streghe, ci darà le falene notturne, ci darà tutta una serie di mostri. I capelli sono sempre in disordine, sempre, quando parliamo di una strega. La civetta è uno degli animali sempre presenti a questi sabba, a questi incontri tra streghe. Guardate qui, Cornelis ce lo dà quasi come trono di questa strega, un gufone, perché civette e gufi sono animali del buio, della notte. Scettro, che funge appunto da bacchetta magica, e varie mostruosità volanti che arrivano a questo convivio. E guardate un po', questo mostro, che è un ibrido, ovvero con un tacchino, con un, no, un tacchino direi di no, 1529, con una faraona, con un pollo, che tiene in mano uno specchio convesso, che rientra nei riti di magia, lo specchio, ovvero per rubare l'anima. È un anti-Arnolfini, diciamo così, no? Professoressa, scusi, ma perché il tacchino? Io non ho capito perché il tacchino non lo... Perché il tacchino è un animale che arriva attraverso le Americhe, il tacchino, e quindi dobbiamo aspettare un po', come dicevamo oggi con i pomodori. E pensate un po', fa il giro contrario del mondo il tacchino per arrivare fino a noi. Parte dall'India, per cui dall'Asia, dalla parte più a est dell'Asia, entra nelle Americhe e giunge fino a noi tra gli animali e le spezie e i vegetali che ci arriveranno proprio dai viaggi di Cristoforo Colombo. Quindi ancora del progresso. 1529 potrebbe essere ancora presto. Così come invece, essendo un animale nuovo, potrebbe essere inserito volutamente. Giusto per farvi vedere che cosa ci sta intorno all'idea di inferno nell'epoca di Bosch, passando attraverso Bruegel e attraverso l'idea appunto della follia, di una follia che esula dalla normalità, che esula dalla quotidianità, da quelle che sono proprio le immagini canoniche. Volevo anche farvi vedere, poi basta, due immagini prese dalla Cappella degli Scrovegni legate alla disperazione che ci viene ritratta a livello di allegoria come una donna che si è impiccata. E questo non c'è stato verso di riuscire a scaricarlo. Cercatelo per favore. È praticamente l'immagine della follia tra le allegorie sempre dentro gli Scrovegni, che ci dà un personaggio che ci ricorda proprio un Fluaches, al pancione grande e ha delle spighe infilate tra i capelli. Considerate vero che la Cappella degli Scrovegni viene affrescata agli inizi del 1300, per cui è proprio un'iconografia canonica, diciamo così, che si tramanda per tre secoli. Ma nell'iconografia del Marco quando è che compare il cane? Cioè più tardi o... Il cane è già presente in uno dei tre mazzi dei Visconti, e il cane nella figura della carta del matto sale posteriormente sulle gambe del matto e gli abbassa i pantaloni, per cui il matto ci fa vedere le natiche. Guardate che il giullare che faccia vedere le natiche rientra proprio in un'iconografia canonica del giullare. Abbiamo anche, per esempio, il martirio di Santa Apollonia, che è un dipinto famoso che chi tra voi ha fatto storia della scenografia conosce, perché ha una posizione particolare con i drammi liturgici sassoni. In primo piano abbiamo proprio un giullare con i pantaloni abbassati, che fa vedere il sedere. È uno sberleffo, no? Chi tra voi ha visto qualche edizione ricorretta di Grease ricorderà che nel film, appunto nella scena della festa, per prendere in giro la preside che sta parlando con quest'aria molto scicchettosa alla televisione, tre ragazzi, tre studenti al ballo di fine anno si calano i pantaloni davanti alle telecamere. È uno sberleffo, è un mancare di rispetto e anche un modo per far ridere. E rientra proprio in uno degli atteggiamenti del buffone, del giullare. Così come rientra nei suoi atteggiamenti la volgarità, l'oscenità, il fatto di raccontare barzellette molto spinte o storielle sporche. Per cui siamo in questo periodo, assolutamente in questo periodo. Non è in uno dei mazzi del Mantegna, ma rientra nei tre mazzi viscontei che sono giunti fino a noi. Credo che per oggi sia più che sufficiente. Ci vediamo la prossima settimana e guardate che la prossima settimana parleremo invece del trionfo della morte e di conseguenza in Bosch parleremo del carro di fieno, del trittico del fieno. Di più artisti, tra cui Buffalmacco. Sì. Cioè, avremo del materiale, delle cose. Avete la bibliografia? Gli appunti delle lezioni? Le registrazioni delle lezioni? Quindi non dovremmo qui fare quel discorso. Certo, per l'esame dovete fare la comparazione dalla quale partiamo per l'esame. Sì? Iniziate a pensarci se volete farlo adesso l'esame. Ricordatevi di firmare. Ma sei dimagrita un sacco. Sì. Ma veramente? Per l'estate. Questo sacrificio della biada a colazione sta dando frutto. Arrivederci. Buongiorno.